Allora, buonasera a tutti e a tutte. Oggi siamo di nuovo qui, in questa piazza, per un momento, uno dei tanti che abbiamo pensato di portare in una strada, momento di confronto e di approfondimento. Faccio una piccolissima premessa dicendo che questa iniziativa di oggi pomeriggio è stata proposta all'interno di un momento assembleare qui a Roma, l'assemblea romana appunto contro il Green Pass, che è un'assemblea che si sta incontrando ormai da diversi mesi, lo dice la parola, ci siamo uniti e unite per reagire, per trovare la maniera di opporci a quello che era lo strumento Green Pass, ma lo abbiamo fatto non esclusivamente contro il Green Pass, ma cercando di ragionare insieme, confrontarci su ciò che questo strumento rappresentava e che di fatto rappresenta anche oggi, dal momento che riteniamo che non sia una faccenda conclusa. Soprattutto ci siamo interrogate sul tipo di società verso il quale ci stanno velocemente catapultando. Penso sia un'evidenza il fatto che le nostre vite siano con le scelte fatte dai governi e dal governo italiano sottoposte a quello che abbiamo definito un controllo da Grande Fratello, insomma. Quindi ecco, quella dell'assemblea è una situazione, un'occasione di confronto e di ragionamento collettivo su ciò che avviene intorno a noi e finanche dentro di noi, dal momento che la questione delle vaccinazioni obbligatorie è entrata non solo appunto nei nostri dibattiti, ma fin dentro i nostri corpi come imposizione. Ricordiamo che tuttora comunque ci sono delle categorie lavorative che necessitano obbligatoriamente di questa tessera, di questo strumento del Green Pass e del vaccino obbligatorio per poter svolgere i propri lavori. Quindi nel corso dei mesi chiaramente abbiamo cercato di organizzare dei momenti di piazza che fossero anche quelli occasione all'esterno e quindi non nell'ambito chiuso di un'assemblea, dei momenti pubblici di confronto tra tutti e tutte quelle che ritenevano che il momento lo necessitasse, un confronto sia di analisi della fase ma anche di analisi e di prospettiva, cioè di su cosa potessimo fare in questo periodo così disastrato E in questa piazza in particolare avevamo organizzato a marzo una giornata intera di mobilitazione fatta appunto da un dibattito iniziale che si è svolto proprio in questa piazza e continuato con dei momenti di convivialità che in quel periodo ancora erano negati e siamo addirittura riusciti a muoverci in corteo, un corteo serale che comunque si è dislocato nelle vie di questo quartiere. Ora anche questo pomeriggio abbiamo ritenuto importante approfondire delle questioni sulle quali poi continuiamo ad interrogarci di settimana in settimana in realtà tra di noi, ma appunto di volerlo fare in uno spazio aperto, in una piazza. Primo perché crediamo che le questioni di cui parliamo riguardino poi in realtà tutti, e magari nel corso della discussione si capirà anche meglio perché, e poi perché appunto perché riteniamo di non doverci chiudere, ma anche proprio rispetto al fatto che una delle caratteristiche di quest'ultimo periodo è stata la propaganda e la forzatura, insomma, di un certo tipo di isolamento sociale, quindi riacquistare la possibilità di confrontarsi collettivamente insomma è molto importante. Dunque l'argomento di oggi, così come intitola diciamo la chiamata, riguarda il concetto di servitù volontaria, che secondo noi insomma caratterizza molto la fase storica che stiamo vivendo. Diciamo che in generale, quando ci sono dei problemi che riguardano una collettività, chi è al potere fa di tutto, diciamo, per nasconderne le cause, per non andare alla radice di questi problemi. Quindi una riflessione collettiva che abbiamo fatto riguarda proprio questo, ovvero da dove partono le questioni che interessano una collettività, la globalità, possiamo dire, che sia, diciamo, che sia l'emergenza climatica, che sia il motore di una guerra, che sia la possibilità di una diffusione larga di quella che hanno chiamato pandemia, sempre appunto vengono omesse all'opinione pubblica le cause che scatenano tutto questo. Beh, noi su questo ci siamo interrogati e crediamo che questo nascondere le cause sia a parte voluto ma anche strategico, perché appunto non cioè falsificare la realtà e quindi negare le responsabilità, cioè non negare chi siano i responsabili della catastrofe, sia una maniera per sviare, diciamo, anche l'indirizzo a cui rivolgersi per tutti quelli che non solo le comprendono queste cause, ma che vorrebbero muoversi e fare qualcosa. Appunto, anche oggi diciamo si parlerà di violenza e non violenza, del monopolio della violenza e della delega che noi, a cui noi tutti siamo chiamati, diciamo. Perché? Perché appunto tutto quello che ci circonda e che negli ultimi mesi, diciamo, abbiamo vissuto direttamente tutti quanti, ci ha aperto gli occhi su quanto abbiamo, diciamo, tutti, insomma non tutti, perché chiaramente per esempio in questo percorso tante volte ci siamo opposti a quello che stava succedendo, ma insomma in generale la società non ha risposto tanto bene agli obblighi, alle restrizioni e ai dispositivi che sono stati creati ad hoc, insomma, in questo periodo descritto e definito e gestito come appunto uno stato di emergenza. Quindi uno stato di emergenza che presuppone, diciamo, uno stare sull'attenti da parte di tutti e tutte, dal obbedire silenziosamente ai dettami, diciamo, dello Stato e alle soluzioni proposte e imposte sicuramente. E quindi il ragionamento che abbiamo portato avanti in tutti questi mesi e ancora riteniamo ci sia grande necessità di approfondire è proprio quello di scardinare questo tipo di dinamica in cui appunto siamo chiamati al disciplinamento in nome di non di una, diciamo, cioè in nome della convenienza fondamentalmente di chi sta al potere, che non agisce appunto per il cosiddetto bene comune o comunque in senso etico per come lo possiamo intendere noi, ma per salvaguardare il proprio privilegio. Vabbè, passo la parola entrando così nel vivo della discussione alle compagne che hanno proposto il dibattito di questa sera e sono state loro promotrici di una serie di incontri di approfondimento su queste ed altre questioni di cui sono disponibili gli atti che sono stati editati e raccolti in un libro, anche questo disponibile oggi in piazza. Grazie. Grazie Federica. Allora, grazie Federica della presentazione, grazie a tutte e a tutti quelli che sono qui in questo momento, grazie all'Assemblea Romana No Green Pass con cui stiamo facendo un percorso da tanti mesi e grazie a Silvia De Bernardinis e a Nicoletta Poidimani che saranno qui con noi stasera a presentare questo libro, perché loro hanno fatto con noi due parti in particolare, una Silvia sulla legalità, o meglio come l'ha chiamata, sull'ideologia della legalità, e una Nicoletta sull'autodeterminazione e sull'autodifesa femminista. Allora, il libro contiene un percorso di analisi e di lotta che noi abbiamo portato avanti per diverso tempo, circa 3 anni, e che è cominciato prima della pandemia, ha attraversato il periodo emergenziale pandemico, si è concluso subito dopo perché abbiamo cercato di tirare le fila di un discorso. Abbiamo indagato quello che abbiamo chiamato il paradigma della violenza non violenza. Il paradigma della violenza non violenza è uno strumento, è costituito da una serie di meccanismi che il sistema si è dato per demonizzare l'alterità, il dissenso, la differenza politica, tutto quello che può mettere in discussione anche in termini molto minimi il pensiero unico dominante. Dico in termini molto minimi perché il paradigma della violenza non violenza si applica dal semplice dissenso verbale alla manifestazione effettiva con delle pratiche di un certo tipo politiche, però tutto questo viene trasferito in una dimensione delinquenziale, viene tacciato immediatamente di una caratteristica delinquenziale e gli viene tolta assolutamente ogni valenza politica. Questo è un meccanismo proprio per togliere la possibilità della protesta, del dissenso, dell'alterità. Però questo meccanismo non viene messo in atto direttamente in maniera esplicita, o meglio, viene messo in atto in maniera esplicita soltanto in alcune occasioni con la repressione diretta. Però è una costruzione che si esplica in diversi ambiti e che costruisce un reticolato di è un sistema di convincimento subdolo e sotterraneo che porta poi il comune sentire a prendere una dimensione estremamente reazionaria, ad avere dei connotati fascistoidi, ad avere dei connotati di obbedienza, e sono quelli che si sono esplicitati proprio nel periodo pandemico, come se durante il periodo pandemico lo Stato e comunque il sistema di potere avesse avuto una verifica, avesse messo in pratica tutti questi sistemi di coercizione più o meno evidente, più o meno blanda, più o meno subdola, che ha costruito nel suo percorso. Vengono presentati questi meccanismi di convincimento, vengono presentati sempre come ambiti separati, momenti occasionali, delle situazioni particolari, mentre fanno parte di un progetto totale, onnicomprensivo e molto chiaro che il sistema ha per demonizzare ogni possibilità di dissenso. La demonizzazione di ogni possibilità di dissenso mira allo stesso tempo a quello di cui parlava Federica, cioè all'asservimento volontario, perché che cosa interessa al sistema? Non interessa tanto reprimere, se non delle particolari situazioni politiche, bensì avere un consenso generalizzato volontario a tutta una serie di prese di posizioni del dominio. Allora, abbiamo analizzato diversi ambiti, voglio essere molto schematica perché voglio passare la parola direttamente poi a Silvia. Abbiamo preso in considerazione diversi ambiti, da quello della legalità, della costruzione del feticcio della legalità, a quella della costruzione dell'egemonia culturale. Il meccanismo della violenza non violenza, questo paradigma messo in essere dallo Stato per demonizzare la violenza politica, viene esplicitato in diversi ambiti, cioè attraverso il feticcio della legalità, attraverso l'instillazione del bisogno di sicurezza della popolazione, per cui la popolazione viene infantilizzata, viene spinta alla delega e quindi ha una fiducia, cioè gli viene richiesta una fiducia nello Stato, ma nei piedi legate di fatto. Il problema della sicurezza poi si esplicita anche attraverso il riempire per esempio il territorio di telecamere, i militari nelle strade, città sicura, il territorio sicuro e compagnia bella, per cui i militari sono in ogni dove, le polizie sono in ogni dove, oppure nel confondere l'aggressore con l'aggredito e quindi mistificare quelle che sono le guerre imperialistiche di aggressione sotto il nome di farle passare come guerre umanitarie, come esportazione della democrazia. Le provocazioni della NATO diventano appunto esportazione di democrazia e il ruolo degli Stati Uniti diventa quello di un paese democratico che vuole far rientrare nei ranghi tutti quelli che non sono, non la pensano, comunque non rispondono ai suoi interessi. Oppure il semplicissimo mistificare storia e memoria, cioè raccontarci un'altra storia e un'altra memoria che niente hanno a che fare con quello che è successo e quello che hanno messo in campo gli oppressi, facendo balenare la possibilità di una cosiddetta convivenza civile fra le parti, di un sereno confronto fra le diverse opinioni, fra le fazioni politiche, ci vuole disponibilità al confronto. Oppure facendo passare quella che è la teoria del consenso, per cui io prima di mettere in atto un'azione devo chiedere il permesso. Siccome non si cambia la storia chiedendo il permesso, allora noi abbiamo cominciato ad analizzare tutte queste parti e abbiamo cominciato a metterle insieme, perché tutte queste tendono a ottenere da noi quello che è l'asservimento volontario che vogliono in questo momento e che stanno portando a compimento attraverso anche lo strumento punto della digitalizzazione, vogliono impostare la, l'identità digitale, per cui noi siamo tutti controllati, come ha detto prima Federica, da un grande fratello a cui ci dobbiamo affidare, e uscire da questo pensiero unico, uscire dai ranghi, significa essere stigmatizzati e appartenere a un certo tipo di popolazione che va, verrà espulsa dal consesso civile, come è successo per i Novax, come è successo per tutti quelli che hanno espresso dissenso nei confronti della guerra. Comunque, intanto affrontiamo con Silvia uno degli ambiti che sono fondanti in questo meccanismo di asservimento, che è quello della legalità. Buonasera, grazie al coordinamento per l'invito, non solo oggi ma anche a partecipare a uno dei loro incontri. Io leggendo il libro in questi giorni, insomma, mi sono venute alcune osservazioni da fare. La prima è proprio il lasso temporale, no? Cioè, sono un ciclo di incontri che va dal 2017 al 2021, non tutti incontri, c'è un'ultima parte che è quella, diciamo, del periodo della pandemia, che è fatta da scritti che poi hanno circolato. E quindi è un periodo che prende la crisi sistemica che stavamo già vivendo prima del 2020 e l'esplosione di crepe evidentissime che già si potevano avvertire in fase prepandemica. Ed è un periodo quest'ultimo in cui c'è anche un commento che mi è piaciuto. Cosa è successo dal 2018 al 2021, che è il periodo, diciamo, che intercorre dall'ultimo incontro, e c'era un attimo che lo cerco, comunque il senso era, non mi ricordo la frase esatta. Il senso era, le contraddizioni sono esplose, sono evidenti, però lo sconquasso più grosso che stiamo vivendo, lo stiamo vivendo, cioè è quello che ci ha toccato come, diciamo, come sinistra di classe, o quel che resta, perché la pandemia non penso che sia... va bene? Sì, sì. Non penso che sia stato il mio l'unico caso, è stato un momento di rottura con molti compagni di viaggio rispetto alle questioni che prima si sente? No, tradizioni sono esplose più nel nostro campo. Piuttosto che nel campo del potere, e questo nonostante tutti quanti abbiamo visto e abbiamo vissuto una fase in cui quello che ci è stato raccontato, detto, era la falsificazione totale della realtà. L'aveva detto anche la compagna all'inizio quando aveva parlato, cioè ci troviamo di fronte a dei governanti che mondialmente fanno appello per i loro dispositivi alla tutela della salute, per esempio, e poi ecco, abbiamo il caso quando ci serve una qualche assistenza sanitaria, aspettiamo un'ambulanza per alcune ore, cioè di fronte a usciamo di casa per lavorare e sappiamo che non sempre si ritorna, quindi le contraddizioni e le falsificazioni della realtà rispetto alla tutela della vita, della salute, sono diventate qualcosa di evidente, però nonostante questo agisce in maniera molto forte ancora appunto quello che è stato definito come asservimento. E c'è una particolarità del libro che a me è piaciuta molto ed è questo continuo passare dal presente al passato. E ci sono una serie di articoli, di testi che poi appunto sono frutto di incontri che si sono svolti, che affrontano il presente e che lanciano una serie di finestre molto importanti sul passato, siano Black Panther negli Stati Uniti, le rotte Zora, il periodo dell'insubordinazione e dell'insorgenza rivoluzionaria negli anni 70 in Italia. Perché è importante questo continuo alternarsi, questo recuperare una memoria che non è quella cosa che ci raccontano della memoria condivisa, che non esiste, è un'altra falsificazione assoluta. C'è una memoria di classe che è stata completamente cancellata. Mi sentite? Perché io ho un eco alle mie spalle. No, si sente. Così? Ok. Nel mio intervento durante uno di questi incontri, che appunto trattava, come ha detto Elisabetta, della legalità, quello che io ho cercato di mettere in evidenza parte più o meno da questa considerazione. Forse la maggioranza di noi è abituato a pensare che il passato spieghi il presente. Però se forse noi invertiamo quest'ordine riusciamo ad avere un'idea più chiara di ciò che siamo oggi, e cioè il presente spiega il passato molto meglio di quanto non avvenga con il contrario. Perché? Perché se noi guardiamo il nostro presente riusciamo a capire esattamente su cosa è stato completamente cancellato dal passato. Il nostro passato, in particolare quello degli anni 70, è esattamente l'immagine rovesciata, no, di quello che siamo oggi. E la legalità, l'insistere per 40 anni in martellare sulla legalità, tant'è che appunto ci sono le settimane della legalità nelle scuole. La legalità che viene continuamente ribadita nella costruzione discorsiva del potere nella fase neoliberista è qualcosa che significa precludere qualsiasi possibilità di cambiamento. La legalità quindi è un recinto con una serie di norme che ti dicono esattamente cosa devi fare, e sappiamo che qualsiasi forma di cambiamento viene proprio dalla rottura della legalità, cioè sono cose veramente elementari che dovremmo avere un po' tutti molto, molto chiaro nella testa. Però appunto, come diceva Elisabetta, tutto questo è diventato senso comune e ci siamo abituati tra l'altro all'idea anche che esistano persone illegali, e questo è passato senza che ci fosse stata una necessaria risposta. Cioè, noi viviamo in città dove ci sono dei campi di concentramento che sono CPR, dove stanno recluse persone che sono state dichiarate illegali. si va da queste forme che sono estreme a quelle più quotidiane, cioè il sacchetto dell'immondizia che deve essere gettato nel giusto cassonetto, il controllo, la delazione, sono una serie di corollari che vengono accompagnati al concetto di legalità. E c'è una cosa, c'è una cosa che è importante. Io vi faccio un esempio, perché ho avuto un'esperienza la scorsa settimana con un gruppo di giovani, giovanissime afrodiscendenti che partecipano ad un gruppo di un laboratorio di scrittura teatrale e che quindi sono anche persone diciamo abbastanza critiche rispetto all'esistente, sono persone che comunque hanno un minimo impegno in politica, una politica chiaramente non istituzionale, soprattutto impegnate nella lotta contro il razzismo, e in questo incontro sono stata chiamata per parlare degli anni 70 e avevo chiesto loro che per parlare degli anni 70 dalla loro prospettiva, avevo chiesto loro che riflettessero e portassero la loro conoscenza, se non la conoscenza, che cosa il termine anni 70 richiamasse nella loro memoria o nella loro testa. E unanimemente le immagini che ricorrevano erano il sangue, le stragi, insomma i morti ammazzati, questo. E oltre a questo, parlando, sono emersi due dati molto significativi, cioè l'assoluta incredulità rispetto alla nostra storia, nel senso che parlando di quello che succedeva nelle fabbriche, per esempio, rimanevano con gli occhi sbarrati a dire: non è possibile, come hanno fatto, come è successo. Quindi c'era questa incredulità da una parte, e dall'altra nella loro prospettiva c'è la assoluta impossibilità anche solo a pensare la possibilità di un cambiamento, di una trasformazione radicale della società. Ora sto raccontando questo perché questo è il risultato dei 40 anni che abbiamo vissuto, durante i quali appunto i dispositivi di neutralizzazione di ogni forma di dissenso hanno mostrato tutto il loro potere. E c'era una cosa che voi avevate detto in atti di un vostro incontro di qualche anno fa, a proposito appunto dell'importanza della memoria e di riattivare una memoria di classe. E scrivevate questo: l'usura del tempo non c'entra con il fatto che una catena di eventi venga ad essere rimossa dalla memoria collettiva. La causa, i processi di dimenticanza e di oblio sono voluti e perseguiti attraverso la falsificazione dell'esperienza storica. La produzione di ricordi sostitutivi, di codificazioni fuorvianti e fraudolente. Si parla di un evento trasgressore non per rappresentarlo, ma per farlo esistere come elemento di legittimazione del potere. In tal modo è taciuto per quanto riguarda il contenuto liberatorio e rivoluzionario. E in luogo di non far sapere, si sceglie di far sapere ciò che legittima il potere e pertanto funziona come strategia di controllo sociale, una rimodellizzazione falsa, una vera controrivoluzione. Ecco, penso che questo spieghi spieghi bene, insomma, quello che abbiamo vissuto, quello che stiamo vivendo in forme ancora più esplicite, ancora più eclatanti. E c'era un'altra questione sulla quale volevo dire due cose, sempre nel trovata tra i vari interventi, e cioè una questione che io penso che sia, forse debba essere uno dei punti di partenza per cercare di uscire, di rompere questi meccanismi, il tentativo di la necessità, anzi, di risignificare alcuni concetti che usiamo, perché nel frattempo siamo stati anche espropriati del linguaggio di una serie di concetti che erano nostri e che hanno assunto valenze e significati completamente diversi. C'è questa questione che è veramente uno degli aspetti più significativi del neocolonialismo e del modo in cui agisce poi e diventa pervasivo a livello di massa. Per esempio, la tutela dei diritti umani. In nome della tutela dei diritti umani, l'Occidente è andato a colonizzare e sta colonizzando il pianeta. In nome dei diritti umani sono state fatte guerre, occorrono guerre praticamente in quasi tutto il mondo. Questa è l'esportazione della democrazia. Nel 1500 si andava con la croce, oggi andiamo appunto con la democrazia, andiamo con i diritti delle minoranze a portare la nostra superiorità di bianchi occidentali, maschi, al resto del pianeta. Quindi ecco, su questo dovremmo forse cominciare a riappropriarci e a dare significati che dovrebbero nascere da quella pratica che è quella che forse porta qualche risultato, che è prassi, teoria, prassi, ecco, il modo per ricostruire degli strumenti di cui abbiamo bisogno. Mi fermo qui. Grazie tantissimo. Proviamo questa. Vi mettete di là. Mettiamoci anche solo lì. Allora, io trovo che questo sia un libro molto bello, non è un giudizio estetico, ma un giudizio concettuale, e che sia il primo libro post-vittimista che vedo pubblicato negli anni recenti. Che cosa intendo per libro post-vittimista? È un libro che non lascia nessuno spazio a quei meccanismi di vittimizzazione di sé o di categorie, le donne, i migranti, questi, quelli, che è una pratica diventata questa della vittimizzazione di sé sempre più usuale per elemosinare briciole al potere dando in cambio la nostra totale complicità. Io tra l'altro sono intervenuta in questo libro con il mio laboratorio post-vittimista che porto avanti da un po' di anni in situazioni di diverso genere per mostrare come il discorso diciamo istituzionale sulla violenza maschile contro le donne sia di fondo un discorso che tende a vittimizzare le donne per indebolirle e mettere in condizione di chiedere poi tutela allo Stato, alle forze dell'ordine, chiedere leggi, eccetera, eccetera. con il mio laboratorio dimostro come ci sia una volontà di costruire proprio una lettura di sé come vittima e come le donne in realtà non nascano deboli ma si ritrovino indebolite da una sovrabbondanza e da un continuo ricorrere di discorsi che le rappresentano appunto come deboli. Ecco, questo dicevo è un libro post-vittimista perché è completamente fuori dai dispositivi vittimizzanti, dà delle prospettive, delle chiavi di reattività, ma costruisce anche, ricostruisce anche una genealogia delle donne che attraverso le loro pratiche, a partire dalle donne all'interno delle Black Panthers, hanno sottratto al patriarcato e allo Stato il monopolio della violenza. Per cui troviamo varie situazioni e varie esperienze di donne appunto che hanno agito la violenza sottraendo allo Stato patriarcale e al capitale questo monopolio. Un altro aspetto secondo me interessante di questo testo è che è uno strumento che mette finalmente dei punti fermi, molto molto fermi, su che cos'è per noi il femminismo e cosa significhi per noi parlare di pratiche femministe, di pratiche di fondo che al centro hanno la messa in gioco dei nostri corpi. Quanto il corpo sia importante e centrale nella pratica politica, lo ha dimostrato proprio la pandemia, che è stata come dire, una gestione autoritaria dei corpi, delle relazioni. E quindi recuperare dal femminismo materialista e radicale degli anni 70 e aggiornare al presente il corpo come elemento centrale della pratica è secondo me fondamentale e questo fa anche capire quanto il femminismo avrebbe avuto tantissimo da dire proprio nei due anni di pandemia e invece siamo state in poche a dire delle cose a partire proprio, come dire, dall'esperienza di cui eravamo portatrici. È anche un testo importante, secondo me, da far circolare anche fuori dall'ambito femminista, al quale fa sicuramente molto bene, ma anche al di fuori di questo ambito e nell'ambito misto, perché tante compagne, per me assolutamente compagne di tutto rispetto, che hanno una radicalità nelle loro pratiche di lotta all'interno del misto, le ho viste purtroppo scendere poi in corteo con le non una di meno, cioè pensare che quello fosse il femminismo e che quindi se si voleva praticare il femminismo si dovesse seguire quel tipo di percorso. Benissimo, come questo libro dice chiaramente, quel tipo di femminismo è strettamente legato a doppio vincolo con la socialdemocrazia e quindi non ha nulla a che vedere con il femminismo materialista e con il femminismo radicale. Ma è un testo importante in ambiti misti anche perché mostra chiaramente come la violenza maschile contro le donne sia una questione strutturale con cui bisogna fare i conti nello stesso modo in cui si fa i conti con la violenza dello Stato. Cioè non si può soprassedere nel momento in cui negli ambiti di movimento avvengono delle situazioni di violenza maschile contro le donne, ma dobbiamo dotarci tutte e tutti di strumenti per affrontare questi nodi, queste contraddizioni senza delegare allo Stato la risoluzione di queste contraddizioni. Un altro aspetto importante che emerge, ne emergono tantissimi, io metto in luce quelli che secondo me, come dire, sono più importanti da riportare in una sintesi, è come autonomia, autodeterminazione e auto-organizzazione siano delle pratiche non negoziabili, che non lasciano e non devono lasciare nessuno spazio di negoziazione con il potere, con le istituzioni, con la logica dirittista, cioè quella logica di richiesta o rivendicazione di diritti che sta solo creando dei danni. Io sono molto colpita dalla degenerazione, ad esempio, che stanno prendendo i Pride, non solo per il fatto che vi partecipino omosessuali, gay e lesbiche, trans in divisa, questo è un aspetto importato direttamente dagli Stati Uniti, in quanto colonia degli Stati Uniti riusciamo sempre ad importare il peggio, ma sono sconvolta da quanto la lotta contro le discriminazioni sia una lotta che non tiene conto della struttura complessiva che produce le discriminazioni. E quindi come delle importanti parole d'ordine diventino semplicemente delle formule magiche, per cui ormai all'interno dei Pride si parla di antirazzismo, di abilismo, di discriminazioni abiliste, eccetera, senza avere né disabili né immigrati all'interno dei Pride. Cioè, ancora una volta viene manifestata quella arroganza e quel suprematismo occidentale per cui ci si arroga di parlare per altri e di avere la parola giusta parlando al posto di altri. Quindi di praticare quello che di fondo il patriarcato suprematista e capitalista ha praticato sulla pelle di donne, gay, lesbiche e via dicendo. Quindi come non siano assolutamente invece negoziabili questi tre aspetti fondamentali, ripeto, autonomia, autodeterminazione e auto-organizzazione. La non negoziabilità di questi aspetti di nuovo è emersa con forza durante, io non vorrei foto, grazie, è emersa con forza sempre di nuovo nei due anni di pandelirio, non che prima non ci fosse, ma lì è venuto a galla il peggio della schifezza che si andava preparando da decenni, perché giustamente Silvia ha parlato degli anni 70, ma non dimentichiamoci che gli anni 70 sono anche gli anni in cui si prepara e si delinea un violento contrattacco, non solo attraverso le leggi speciali che già sarebbero state sufficienti, ma per esempio con la mobilitazione di schiere di psicologi organici al sistema che studiano per esempio come far accettare le nocività alla gente secondo un ragionamento rischi-benefici. Ne avevo parlato qui alcuni mesi fa parlando dell'esperienza di Seveso e della diossina di Seveso che io ho vissuto in prima persona. Quello stesso calcolo rischi-benefici, che è un calcolo che nulla a che vedere con un discorso sanitario, ma è un calcolo di tipo economico-finanziario, che abbiamo sentito riproporre di nuovo anche sulla questione vaccinale. Questo è negli anni 70, quindi nel momento in cui ci sono dei movimenti sociali forti che stanno attaccando il sistema, il sistema sta già preparando il contrattacco. Per questo dico, ciò che abbiamo visto tra il 2020 e il 2022 di fondo non è che la sintesi di questo feroce contrattacco. Se non abbiamo chiari questi tre punti fermi, l'alternativa, ed emerge chiaramente da questo libro, è l'alienazione, cioè diventare noi stessi e noi stesse gli attori della nostra alienazione. Viene fatto un esempio molto lampante di una rivendicazione assolutamente assurda, non si può definire in altro modo: tu mi chiudi, tu mi paghi, come per dire, se mi paghi io accetto di venire chiuso in casa, no? È come dire appunto anche tu mi sfrutti, tu mi paghi, cioè quindi accettiamo il venire blindati in casa, accettiamo lo sfruttamento, accettiamo se in qualche modo ci viene dato un risarcimento. Allora, proprio l'altro giorno io ero a Viareggio per l'anniversario della strage che c'è stata con l'esplosione del treno merci che trasportava GPL, e prima del corteo c'è stato un incontro, un'assemblea molto interessante in cui è intervenuta anche una compagna, Daniela, che è stata per anni una compagna molto attiva nelle lotte contro l'amianto insieme al suo compagno che purtroppo abbiamo perso poco tempo fa, Michele Michelino. E si ragionava proprio sulla questione dei risarcimenti, cioè la differenza tra una lotta contro e la richiesta di risarcimento, no? La richiesta di risarcimento di fondo è un dare uno strumento allo Stato per chiudere le contraddizioni, per rimetterle sotto il tappeto. Anche a Seveso avvenne questo dopo il 76, cioè la Givaudan La Roche, che era la multinazionale farmaceutica proprietaria dell'ICMESA, trattò tra l'altro individualmente, quindi con i singoli capofamiglia, quindi dando potere ai maschi delle famiglie, ma individualmente, non collettivamente, con la popolazione di Seveso i risarcimenti. E questo ruppe completamente il fronte della lotta che si era riusciti a formare. Cioè la gente venne fondamentalmente comprata in una maniera molto molto furba. Allora, fare i conti con il rapporto che noi abbiamo con le nostre alienazioni, quindi prima di tutto prendere coscienza degli elementi che generano le nostre alienazioni e combattere contro questi elementi che le generano, anziché chiedere il risarcimento dell'alienazione, è sicuramente un elemento chiave di tante lotte, non solo di quella femminista, ma di quella sul lavoro, eccetera. Oltre al fatto che vorrei chiarire, ma Elisabetta l'ha già detto chiaramente, che la lotta femminista non è una lotta settoriale, così lo rappresenta il femminismo mainstream. Come diceva Luciano Parinetto negli anni 80, è come dare le donne da consumare alle donne, gli omosessuali da consumare agli omosessuali, tutti diventiamo merce in questa logica alienata, no? Perché l'alienazione appunto è questa reificazione, quindi anche il diventare cose, il diventare merci. Ecco, allora prendere atto delle alienazioni e combattere contro le radici, le cause di queste alienazioni, non invece pensare di poter negoziare denaro contro alienazione. E ripeto, lo vediamo su tutti i fronti, e il femminismo non è una lotta settoriale, ma è una prospettiva sulle lotte. È una prospettiva che parte dal vissuto dei nostri corpi, dal vissuto non solo individuale ma anche storico e genealogico che i nostri corpi rappresentano. l'ultimo aspetto che tocco ora, poi magari reintervengo dopo, non voglio portare via tempo perché auspico che ci sia anche dibattito, un altro aspetto importante di questo libro è che, pur ponendo in maniera assertiva dei punti fermi, va anche a toccare, soprattutto nella parte finale, dei nodi, nomina dei nodi che devono essere affrontati, non possono essere lasciati da parte, perché sennò continueranno a riproporsi. Nodi quali, ad esempio, che relazione abbiamo noi con le nostre contraddizioni? Lavoriamo e lavoriamo all'interno di un sistema che ci chiede di lavorare in un certo modo, e cioè non è che ci sottraiamo a questo, o qualcuno si sottrae e va a fare le rapine, ma la stragrande maggioranza di noi agisce nel cuore di queste contraddizioni. Allora, la presa di coscienza di queste contraddizioni è un passaggio fondamentale, e nominare queste contraddizioni, tra cui una fondamentale: ma siamo veramente così anticapitalisti e anticapitaliste? O di fondo questo sistema ci piace? E questo viene detto chiaramente nel libro, perché con questo è importante interrogarci. Ora, sia chiaro, è un interrogarci politico, non è l'interrogarci cattolico del senso di colpa, no? È un interrogarci politico sul nodo del capitalismo, perché interrogarci su questo nodo significa interrogarci su quanto ci piacciono i privilegi che questo sistema ci dà e su quello che ci chiede in cambio di questi privilegi, quindi di quali complicità, consapevoli o anche inconsapevoli, noi mettiamo in atto. Un altro nodo che a me sta molto a cuore, che qui viene nominato e lasciato in sospeso, devo dire in una maniera anche giustamente ansiogena, è il nodo della comunità. Cosa intendiamo per comunità? Che cosa intendiamo quando parliamo di comunità? A fronte di quello che è successo, ad esempio, in questi due anni, dove la comunità è stata rappresentata come la comunità fittizia di gente ai balconi con le bandiere "andrà tutto bene, cantiamo l'inno nazionale", gente che poi si è trovata buttata fuori dai posti di lavoro, ricattata con l'obbligo vaccinale o comunque con l'obbligo di Green Pass, e quindi se non si volevano far vaccinare là dove non c'era obbligo, un tampone ogni due giorni, eccetera, no? Tutte queste persone su cui, che si sono sentite in quel momento comunità, si sono poi rese conto di essere una comunità fittizia, quella stessa comunità fittizia di cui ha celebrato le grandi lodi Mattarella, presidente e ripresidente, non rieletto perché eravamo alle soglie di una guerra, e chi meglio di un ex ministro della difesa di una guerra della NATO, tra l'altro la guerra contro la Jugoslavia, dovevamo avere a Presidente della Repubblica. Ecco, Mattarella ha continuato a riproporre la retorica della comunità e della solidarietà, ma noi che la solidarietà la pratichiamo veramente sappiamo che quella non era assolutamente una solidarietà, ma era un ricatto fatto proprio in chiave cattolica: se non ti vaccini non sei solidale, se non ti vaccini non tuteli l'altro. Lo stiamo vedendo che cosa sta succedendo ora, che sostanzialmente tutti quelli che si sono fatti inoculare questi sieri sperimentali si stanno prendendo il Covid perché le loro difese immunitarie sono andate sottoterra. Ma vabbè, non mi voglio soffermare su questo. Torno sul nodo della comunità, perché per me è stato un nodo importante, è un nodo importante, lo è stato nel momento in cui, a fronte di quello che stava succedendo in Italia e in generale nei paesi occidentali, io sono andata a vedere come le comunità reali, cioè le comunità che si erano costituite nei decenni precedenti, quando non nei secoli precedenti, come la comunità repubblicana nordirlandese, che sono comunità fondate su una pratica reale di resistenza, gestissero appunto la questione della pandemia, cioè come gestissero il loro costituirsi in caring communities, in comunità reali di cura, in Chiapas e in altri luoghi. E questo mi ha fatto molto interrogare sulla nostra incapacità di essere comunità. E comunità, come viene spiegato qui, non è la retorica del quartiere, cioè una comunità dove la connotazione di classe in primis e tante altre connotazioni scompaiono di fronte ad un appiattimento dell'essere comunità e discutere il problema dei marciapiedi piuttosto che, no, è un'altra la questione della comunità. Ma vogliamo, possiamo e riusciamo ad essere comunità? E come? Come diceva l'altra volta quando abbiamo parlato qui appunto del percorso della gestione della militarizzazione dei territori e della salute da Seveso al Covid, come diceva la Stefania Consigliere, se noi non ci prepariamo per la prossima pandemia, perché ne avremo altre, stanno già profilandola, no? Adesso c'è il vaiolo delle scimmie, ma sta ritornando la poliomielite e stanno ritornando tante cose, ma perché questi virus sono tutti virus che si trovano all'interno delle centinaia di laboratori per la ricerca bellica biologica che sono in giro per il mondo, Italia compresa. Quindi stanno ritornando tutte queste, diciamo, vecchie malattie. Ci sta pure che torni la peste prima o poi, perché sapete che in questi biolaboratori sono conservati anche i virus della peste, no? E allora vogliamo farci trovare impreparati un'altra volta o vogliamo invece capire come mettere in piedi una reale comunità di cura che significa prendersi cura dell'altro, non di cura nel senso di terapia, ma prendersi cura dell'altro a 360 gradi con quei tre elementi che sono autonomia, autodeterminazione e auto-organizzazione, ritornando agli aspetti che emergono dal libro. Questo secondo me è appunto un nodo importante che io ringrazio le compagne, in particolare Noemi, che ha visceralmente espresso questo nodo della comunità e si sente la sua sofferenza nel fare sofferenza intellettuale e anche di pancia, perché non disconnettiamo mai la testa dalla pancia, no? Nel fare i conti con questo nodo. Ecco, io credo che questo libro ci dia degli strumenti importantissimi. Poco mi importa che il femminismo mainstream cambi, come dire, faccia una svolta dovuta e necessaria, non la farà, perché l'interesse è quello di concertare col potere per ottenere degli spazi all'interno di quel potere, ma tra compagne e compagni, e vorrei che questa volta i compagni ascoltassero l'esperienza delle donne e delle femministe più di quanto non abbiano fatto finora, proprio per darci degli strumenti e delle pratiche di lotta chiare, determinate, senza dimenticare che nelle pratiche è sempre in gioco il corpo e che quindi il corpo non è una tematica marginale, il corpo non è un elemento marginale, il corpo siamo noi, è il nostro essere in relazione con gli altri e le altre che costituisce anche il nostro corpo. Quindi rimettiamolo al centro della questione, perché visto che per decenni è stato tolto, perché le istanze mosse dal movimento delle donne sono state affossate dal movimento misto e dal mainstream femminista, è invece importante rimetterlo al centro, perché se no ancora una volta saranno gli apparati di potere a gestire i nostri corpi. E io credo e spero che qui nessuno voglia rivedere quello che è successo. Vi ringrazio tanto e auspico un ottimo dibattito. Sì, è veramente telegrafico. Avevo appunto dimenticato di dire nell'ultima parte del mio intervento, quando parlavo della necessità di ridare significato concreto a partire appunto dalla praxis, dalla pratica, oltre al concetto di comunità su cui Nicoletta ha detto tutto quel che c'era da dire, un altro concetto importante che viene trattato è quello della militanza. Anche lì c'è, vedete come cambia il linguaggio, oggi è molto di moda dire attivista, e la differenza tra attivista e militante è una differenza politica e concettuale molto profonda. Significa uscire da un'altra logica deleteria di questi ultimi anni, in particolare anche sempre di questi ultimi due anni, dove tutto è diventato amplificato dalla prospettiva né con uno né con l'altro, no, cioè quello che bisogna fare è prendere posizione. Essere militante significa prendere posizione rispetto alle questioni. Ecco, era questo che volevo aggiungere. E scusate, poi chiudo gli altri concetti: autonomia, autodeterminazione, auto-organizzazione, che venivano sottolineati anche questi. Questa è una questione che io pongo: che cosa intendiamo, che cosa vogliamo significare quando utilizziamo questi termini, perché comunque anche questi concetti sono cambiati. Grazie.